battiti ritmici frenetici. Momenti ritmici frenetici, anche più calmi ma benefici. Sulla testa o qualcuno ti calpesta. Quel che so, già lo so, quel che è scuro, sembra più puro, ma sono sicuro. La strada nuova, rompe le uova, a quella gente che sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia e della mente. Semplificare. Semplificare. E puoi pensare che è tutto chiaro. Ora puoi ballare. Abbiamo effettuato il contatto. Il programmino è attivo. Buongiorno a tutti. Gigi D'Agostino è il suo programmino, 24 gennaio 2004. Mani al cielo. Si parte. Testa, o qualcuno ti calpesta. I'm gonna go. E Gigi D'Agostino. Radio Italia Network, è il programmino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Ciao. Allora, oggi 24 gennaio 2004, anche oggi giocheremo e vi regalerò degli omaggi per entrare in discoteca ad un grande evento che si terrà a Torino, nei pressi di Torino, alla discoteca Privilege. Privilege. Il giochino però sarà diverso dalla scorsa settimana, quindi non mandate già il messaggino con i titoli e queste robe qua. Sarà molto diverso il giochino, però ve lo spiego dopo, perché sapete che io ho delle grossissime difficoltà a spiegare i vari giochini e quindi ci metto un po', ho bisogno di qualche momento. Nel frattempo vi dico già che il gioco termina alle 16, cioè quando termina il programma termina anche il gioco, perché la scorsa volta poi mi hanno scritto fino al martedì e invece no, il gioco termina, quindi dovrete rispondere entro le ore 16. Ciao, sono Gigi D'Agostino, l'ho già detto. Allora niente, adesso mi ascolto la canzone. Siamo tra poco, rimanete lì, oppure anche un po' più là. Pubblicità. Taradatata. Rin, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Che sarà? Che sarà? lasciatevi andare alla marcia del programmino, a volte lenta, violenta. Il vostro piede che vi sposta nel tempo a tempo. È quel passo in avanti che compiamo in ogni momento. Ci sposta nel tempo a tempo, oltre il tempo. Che bel tempo. Questo è il nostro tempo, è il tempo del programmino, un programmino senza tempo, molto a tempo. Questa è la marcia, camminando su noi stessi a tempo, formando tanti triangolini, dando vita a tutte queste geometrie. Sempre diverse. Tempi particolari. Mi piace molto questa gente che parla sul tempo, con questo ritmo. Mi piace molto questa gente che parla sul tempo. Okay, okie dokie, OBC. No more focus, OBO's got a career. And I like your pizzeria, and it's a party in here. And I'm ready to talk naughty and Veronica's here. She erotic and it's hot, so I Heineken beer. Pull it to the side and invite her to cheers. Pull up a chair, nigga swear, no drama. Prepare for a player, we're working with a monster. I ain't got time to waste, let's vacate the place, shed blinds and drapes. Grind to your face in the grimy state, concentrate, you'll find that you're bound to cake. What we found was fate, we can watch two incredible mates masturbate, why settle or wait? Let's escalate to the nearest super aim, to your rivers on the mirrors and the smearing booty cheeks, come on! And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some teeth. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some teeth. Okay, holy moly, derriere. Look around the club, booty everywhere. And she caught me staring and my homie's daring me to approach her. And she's model material. But she got a venereal, turns to baby fathers, baby bottles and cereal. She holla cause I got a lot of denario. The DJ's playing OB song on the stereo. And she's impaired and she wants to be hitting on with the real thing, not the dildo clones. And I know I don't wanna be heading home with some double D's full of silicone. 10 hood rat chicks surround me outside, found me outside, clown me outside. Till I popped the trunk and they found me outside. Busting at the bitches screaming off today, rocks. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some teeth. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some teeth. Okay, roly polies everywhere. Gotta find a slim chick's atmosphere. Obesity's flaring and she got me fearing. She gon' come over here and try to eat me literally. Like a box of Cheerios, carrot cupcakes and chocolate sissy rolls. I'm out of order. matter cause I got a big girl. Just sorta cover up that blubber or I split. And I ain't got time to play. Let's investigate another place today. Ladies, less in weight and address they shape. Dresses, petite, no window drapes. Word to mother, they got damn okra and beans. Got your okra and jeans. Seems to me a little lean cuisine. Wouldn't hurt much, I don't touch. And this is my favorite song to sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. And this is my favorite song to sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight. Mi piace molto questa gente che parla sul tempo. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I might not. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is boring, I don't. Canzone lì che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto a me. Bella. Bella questa. Questa, bella questa. Mi piace. Questa, questa. Bella, bella. troppo, troppo. E mi piace troppo e mi entra dentro, mi percorre, mi fa del male, ma è talmente male che mi fa stare bene. È difficile da spiegare, sono quelle cose che puoi solo provare, non puoi. Non capito. Canzone così non ti riesci più a fermare. Sono Gigi D'Agostino. Secondo il re degli stilisti, Richard Blackwell, non so se si pronuncia così, comunque quello lì, le tre donne, le tre peggio vestite del 2003 sono Paris Hilton, Madonna e Britney Spears. Solo per capire però quale fosse il parametro, vorrei sapere anche e vedere chi sono le tre meglio vestite, perché secondo come fa uno a dire che queste sono le peggio vestite? È troppo soggettivo. Non puoi. Siamo tra poco, rimanete lì, oppure anche un po' più là. Pubblicità. Taradatata. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Be careful what you do. Anche quest'anno ci sarà il Grande Fratello in televisione. Contenete l'entusiasmo. Niente, quest'anno lo condurrà la trasmissione Barbara D'Urso. Lei sostiene che quest'anno il Grande Fratello sarà molto diverso dal solito. Perché i ragazzi questa volta soffriranno per davvero. Dice che questa volta non sarà assolutamente una passeggiata, se non superano le prove, non mangeranno, saranno puniti. Ci sarà una stanza delle punizioni dove chi sgarra dormirà lì, dormirà sulla paglia e si laverà con l'acqua fredda. Vabbè, potrei andare avanti, ma posso anche fermarmi. Ho letto questa cosa perché il gioco di oggi riguarda proprio il Grande Fratello. Dovete scrivere un messaggino al numero del programmino 333-64-67-662. Dovete scrivere almeno un buon motivo per guardare il Grande Fratello. Oppure motivo per non guardarlo. Allora dicevo che il gioco oggi. Grande Fratello. Allora, i primi 10 che mi scriveranno o un buon motivo per guardare il Grande Fratello oppure un buon motivo per non guardarlo, vinceranno l'ingresso omaggio per entrare alla discoteca Privilege vicino Torino al grande evento del 20 febbraio. Rallentiamo la marcia del programmino. Ora la nostra danza accarezza l'aria intorno a noi e il nostro pensiero si perde e poi si ritrova e pensiamo che stiamo vivendo. If you never say goodbye to the best things in your life, there are things you don't appreciate at all. So it's best that you don't try. Say goodbye, no regrets, I won't have. si può dire dopo una canzone così? Eh? Nulla. Solo andare avanti, continuare a camminare. A tempo. Se avete tempo, guardate il tempo e pensate che tutto questo lo può cambiare. Di quest'oggi, il concorsino del programmino, dovete scrivere un messaggino al 333-6467-662. Vai con lo stacchetto? Allora, il giochino di oggi è difficile, eh? Dovete scrivermi un buon motivo per guardare il Grande Fratello oppure un buon motivo per non guardarlo. Ovviamente ne sceglieremo 5 e 5. I primi, ovviamente, saranno scelti. Vinceranno i primi 5 motivi più interessanti, che verranno letti poi la prossima settimana, nella prossima puntata. Leggeremo. Puntata. Leggeremo. Ovviamente i messaggi dei vincitori. Allora, vi ripeto il numero per partecipare al concorsino del programmino: 333-6467-662. Partecipate al concorsino. Ho trovato un articolo interessante di una giornalista. Sono molto d'accordo, tra l'altro, con tutto quello che ha scritto. Io vi leggo solo qualche passaggio. La giornalista in questione si chiama Maria Venturi. Allora, a proposito della questione Bonoli se striscia la notizia, ma giusto così, solo perché ha scritto delle cose interessanti e quindi volevo affrontare per un attimo l'argomento. Allora, lei scrive: mentre il fallimento della Parmalat mette in ginocchio il sistema bancario e dei controlli, mentre la rissosità politica, la violenza all'interno delle famiglie, gli scandali di mala sanità, la povertà strisciante e la crisi della giustizia offrono un quadro altrettanto desolante del bel paese, il già benemerito TG satirico Striscia la Notizia inizia la guerra contro Bonolis e Del Noce, facendo di loro i responsabili di tutti i mali che ci affliggono. Beh, interessante. Lei introduce questo articolo scrivendo: nella guerra tra Bonolis e Ricci ne fanno le spese i telespettatori, che ingenui continuano a subire il malcostume della TV. Niente da aggiungere. Ci sentiamo tra poco, rimanete lì. Oppure anche un po' più là. Pubblicità. Taradatata. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Comunque adesso ho un po' paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Comunque adesso ho paura, ho paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero, sia sincero, sia sincero, sia sincero. comunque adesso ho un po' paura, ho paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincero. Rin, Radio Italia Network, programma a tempo. Ma non programmiamo il tempo. Vi ricordo ancora il numero per partecipare al concorsino del programmino: 333-6467-662. Lo dico un'altra volta: 333-6467-662. E il concorsino del programmino, dovete scrivermi un buon motivo per guardare il Grande Fratello, oppure un buon motivo per non guardarlo. Vincerete l'omaggio per entrare al Privilege Discoteca a Torino, il grande evento che si terrà venerdì 20 febbraio, lì, in quella discoteca lì. Suonerò io, ci sarà la mia musica, la musica del programmino e tante altre cose che vi spiegheremo mano a mano, puntata a puntata. Qualcuno ha alzato le mani? Qualcuno voleva dire qualcosa? Cosa stavate pensando? Cosa stavate guardando? Cosa più bella che ci sta succedendo. Stiamo vivendo. www.gigi.com. baby goodnight. When tomorrow comes, I'm reborn looking in your eyes. Baby goodnight, sleeping tight and long, you wake up feeling. Fiocco rosa e fiocco azzurro al programmino. È arrivato un messaggio di Tony Noise, amico del programmino, vuole fare gli auguri di buon compleanno a Giusy e a Teo. Mi ha richiesto un disco di qualche anno fa, solo che non ce l'ho qui con me e purtroppo Tony non posso suonarlo, mi spiace. Comunque auguri di buon compleanno quindi da Tony, dal programmino, da tutti gli amici del programmino, a Teo e a Giusy, un altro compleanno, a Domi, buon compleanno anche a Domi, auguri dal programmino a tempo. Partecipate al concorsino, il programmino. Partecipate, votate. Il programmino di Gigi D'Agostino. Programmino in tour, vi ricordo le date del programmino dove suonerà Gigi D'Agostino, che sono io. Il 31 gennaio alla discoteca Four Roses a Marina di Grosseto, in provincia di Grosseto. Il 1 febbraio, domenica pomeriggio, alla discoteca Energy a Ciampino, Roma. 7 febbraio, sabato sera, discoteca 24.000 baci a Latina. Venerdì 20 febbraio, discoteca Privilege a Irasca, Torino. Tra poco, rimanete lì o, oppure anche un po' più là. Pubblicità. Taradatata. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. quando chiesi che cosa non deve mai fare il samurai al servizio del suo daimyo, mi fu risposto: il samurai non deve bere smodatamente, né essere troppo sicuro di sé, né abbandonarsi al lusso. Nelle difficoltà, tali debolezze hanno solo poche occasioni di essere soddisfatte, quindi non hanno che conseguenze limitate. Ma quando i tempi migliorano, la vita diventa più facile, e allora questi tre difetti possono sortire effetti nefasti. Si esamini da vicino la carriera delle persone conosciute. Dal momento in cui iniziano ad avere successo, sono inclini a essere soddisfatte di loro stesse e presto diventano smisuratamente arroganti e si lasciano andare in modo inammissibile a un lusso sfrenato. È bene affrontare le difficoltà in gioventù, perché chi non ha mai sofferto non ha temprato pienamente il suo carattere. Il samurai che si scoraggia o cede di fronte alla prova non è di alcuna utilità. Si fosse messo all'ascolto ora, questo è il programmino di Gigi D'Agostino. Io sono Gigi D'Agostino, questa è Radio Italia Network, RIN. Potete partecipare al concorsino del programmino scrivendo un sms al 333 6467 662, scrivendo almeno un buon motivo per guardare il Grande Fratello, oppure un buon motivo per non guardarlo. Thank you. diceva John von Neumann, il padre del computer, che non esiste l'intelligenza artificiale, ma soltanto la stupidità artificiale, perché l'intelligenza è solo ed esclusivamente creatività. Possiamo sbagliare quando ricostruiamo eventi accaduti tempo prima, dimenticare nomi, compiere errori di valutazione sui fatti o persone. Possiamo fare tutto questo, siamo liberi di farlo e proprio in questa libertà consiste la nostra intelligenza creativa. In questa libertà consiste la nostra intelligenza creativa. Consiste la nostra intelligenza creativa. Partecipare al concorsino del messaggino, del programmino, del D'Agostino, il messaggino, col concorsino ti fa vincere l'omaggino per entrare al Privilege venerdì 20 febbraio 2004, grande evento, Privilege, Torino, sulla testa. sentiamo tra poco. Rimanete lì. Oppure anche un po' più là. Pubblicità. Taradatata. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Uesugi Kenshin. No, aspetta, come si dice? Uesugi. Vabbè, questo qui che si chiama Uesugi Kenshin disse: non ho mai pensato a vincere. Ho solo capito che bisognava essere sempre all'altezza della situazione. E questo è ciò che conta. È imbarazzante che un samurai non lo sia. Se fossimo sempre all'altezza della situazione, non ci sentiremmo mai a disagio. Solo adesso? Non c'è problema, vi spiego tutto io. Concorsino del programmino di Gigi D'Agostino. Scrivi un messaggino. Un buon motivo per guardare il Grande Fratello. Un buon motivo per non guardarlo. Verranno scelti i primi 10 che scriveranno il messaggino al concorsino del programmino. Le 10 persone vinceranno un omaggio, ingresso omaggio per entrare al grande evento venerdì 20 febbraio, Privilege Discoteca in Italia, Torino. Taking their time right behind my back.

Tu devi solo mettere in pratica tutto il tuo sapere e tutto quello che non sai di sapere. Love.